Termino il mio mandato in una situazione confusa e drammatica sul piano nazionale, su quello internazionale, sul fronte politico, su quello economico. Quando prendevo la parola in questa sede 6 anni fa, incidentalmente con un discorso che verteva sulla crescita, come vedete una fantasia limitata, la situazione era ben diversa. La sua apparente tranquillità, la compiacenza generale, l'ammirazione addirittura verso la finanza come motore di sviluppo nascondevano, in un certo senso, come avviene in qualche romanzo di Joseph Roth, i semi della catastrofe futura. Della crisi l'Italia non aveva nulla da rimproverarsi. Per debolezze strutturali mai curate, ne veniva travolta, penalizzata più di altre, al punto di trovarsi essa stessa oggi, un po' per la lentezza nell'uscire dalla sua crisi, ad essere divenuta essa stessa una ragione di crisi generale. Ma continuo a pensare che la gravità e la complessità della situazione non devono farci dimenticare i nostri punti di forza. E vorrei dire che il primo di questi è il nostro Capo dello Stato, che desidero ringraziare personalmente. Che desidero ringraziare personalmente come cittadino e istituzionalmente a nome della Banca d'Italia.